Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una volta iniziata alle 18.36, una volta alle 18.33, una volta alle 18.34, cialtroni! Io sono un seguace dello zanzaresimo. Siamo veramente al top qua. Dacci oggi la nostra zanzara quotidiana. La mia ragazza mi vuole lasciare perché le faccio ascoltare sempre la zanzara. Ma chi se ne fotte? Ragazzi, la mia ragazza mi ha lasciato da pochi giorni. Però ne sto uscendo abbastanza bene. Insomma, abbastanza bene. Lei non gradiva la zanzara, perciò comunque la cosa non era destinata a durare. Però lo sai, Davide, che questa storia che le donne sono contrarie al fatto che i fidanzati ascoltino la zanzara è una cazzata. Io conosco tantissime donne che ascoltano questa trasmissione, veramente tante. Dunque, sì, useranno questa scusa per mollare dei personaggi terribili, evidentemente. Probabilmente è così, probabilmente è così. È la scusa che dicono, vabbè, ma tu ascolti quella trasmissione, eccetera, sì. Ti voglio lasciare, qui ci sono solo delle porcherie, eccetera, eccetera. Ieri Sgarbi l'ha detta grossa, l'ha detta grossa sull'AIDS, l'ha detta grossa sull'AIDS. Ci sono comunità gay, caro Parenzo, che sono praticamente in rivolta per questa cosa qua. Perché sostiene sostanzialmente che l'AIDS appartiene al mondo omosessuale, cioè solamente i gay si ammalano di AIDS, che è una cazzata grossa come una casa. Una follia. Allora, l'amico Di Maio, caro Parenzo, l'amico Di Maio, non c'è, insomma, sempre di quello parliamo. Adesso ci accuseranno come al solito, parlate sempre dei 5 Stelle mentre ci sono 100 rappresentanti del PD indagati in tutta Italia, tutte stronzate. L'attenzione è concentrata su di questo. Qualcuno dice tutti i giornali, tutte le televisioni si occupano dei 5 Stelle perché c'è il grande complotto dei poteri forti contro di noi. Vanno a vedere la pagliuzza, no? Ma sono tutte cazzate. Ci si concentra sul sindaco di Roma e soprattutto sul fatto che questi qua sono arrivati dicendo noi siamo meglio, noi siamo gli onesti, noi siamo trasparenti, e invece non raccontano una cosa per loro fondamentale. A noi, in fondo, che l'assessore all'ambiente di Roma sia accusato, che sia sotto indagine, ce ne può fregare, ma relativamente, no? Perché un indagato... Cioè, ci interessa l'opinione pubblica saperlo. Sì, un indagato è innocente fino a prova contraria. Per cui, insomma, sono loro che si creano tutto un problema, capito? Tutto un problema interno di moralità, di cose di questo tipo. E poi, scusa, quell'altro che dice Di Maio, che dovrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio, che molti dicono che potrebbe sfidare Renzi, che dice che si è sbagliato a leggere la mail che gli ha mandato, ecco, la Taverna. Questo è incredibile, specie per uno che ha fondato, cioè uno che appartiene a un partito che è fondato sulla rete, quindi sulle mail. Sì, sulle mail, sulle cose, no, sulle sulla cose. Sulla rete, questo è incredibile. Lui che non sa leggere mai le mail, come è come la nipote di Mubarak, dai, è come praticamente è come simile, la nipote di Mubarak. Sì, sì, è molto simile alla nipote di Mubarak. Eh sì, dai, su, quando è come quando quello diceva che Rubio è la nipote di Mubarak, la stessa cosa quando lui dice mi sono sbagliato a leggere la mail della Taverna, ma chi ci crede, dai, su. Allora, la curiosa tesi di Travaglio esposta ieri sera nella tua trasmissione. Travaglio cosa dice? Se la Raggi avesse detto di sì alle Olimpiadi, sarebbe stata lasciata in pace dalla grande stampa, da quelli che vogliono mangiare sulle Olimpiadi. Mi permetto sommessamente di dire che è una puttanata pazzesca. Cioè, secondo Travaglio, la Raggi, siccome è contro le Olimpiadi, allora ha tutti i poteri forti, cioè i costruttori, le persone che vogliono speculare sulle Olimpiadi, che la attaccano. Ora, che i 5 Stelle non siano simpatici a un po' di imprenditori italiani, a un po' di questo non c'è dubbio, no? Perché, come si sa, loro sono contro. No? Questo sì, questo quello è può darsi che non siano simpatici. È molto verosimile. Ma amico mio, ma non è che l'hanno scelta, cioè la signora indagata, non è che l'hanno scelta Malagò & Company, cioè l'ha scelta lei. C'è la scelta lei, le faide interne tra lei, questo famoso direttorio Grillo che impone delle cose, cioè non è che ce la siamo inventata noi, cioè sono tutte cose che sono create loro all'interno, no? Cioè non è arrivato qualcuno da fuori che ha imposto qualcosa, o mi sbaglio, non lo so, comunque Travaglio. La sensazione era che si parlasse di rifiuti per non parlare di Olimpiadi. Cioè che ci siano dei gran magnoni a Roma che hanno fatto capire tramite i loro giornali alla signora Raggi che se voleva riavere il suo corpicino intatto e anche quello della Muraro intatto non aveva che da fare una cosa, rinnegare la sua campagna elettorale sul no alle Olimpiadi e dire di sì alle per Olimpiadi. Per capirci così poi andiamo da volentieri. Sì, d'accordo con questo, che se avesse detto Roma. Sì alle Olimpiadi no, non sarebbe avrebbero lasciata questo. In pace. Anche se avesse detto no alle Olimpiadi. Allora, lo stesso sindaco di Parma, che si chiama Pizzarotti, come sapete, dei 5 Stelle, dice che Di Maio non poteva non sapere. Cioè, non poteva non sapere che quella era indagata. Sai che queste discussioni già mi hanno stancato dopo due giorni? Cioè, quello che non poteva non sapere, quello Grillo che incontro o no la Raggi, si radurano tutti a Nettuno, ma la Raggi non c'è. Ma è una cosa pazzesca, ma nemmeno la Democrazia Cristiana, ma nemmeno la DC facevano così. Cioè, lo facevano in modo più nobile, si riunivano le correnti, si spartivano il potere, si spartivano questi. Questi non sanno che fare, hanno creato dei mostri il direttorio. Grillo che decide alla fine decide tutto lui. E poi. No, Grillo alla fine però non ha deciso oggi. Ma no, appunto, non si capisce niente. No, nulla. Ha detto una cosa interessante, dice che sulla Muraro decidono i PM. Cioè, praticamente ha dato un colpo al cerchio e un colpo alla botte oggi, Grillo. Io penso che Di Maio, al di là di quello che sta uscendo, di non so, sentito telefonate ascoltate o meno, non poteva non sapere, perché il rapporto stretto che ha con Virginia Raggi a Roma, io non voglio pensare che non fosse stato informato, perché sennò ci sarebbe una grave, insomma, pecca di fiducia, e questo non voglio pensare che sia possibile. A proposito di Di Maio, che come sapete è scappato ieri dalle telecamere, forse parlerà tra una settimana, tra 10 giorni, ma chi se ne frega. Beh, vi voglio ricordare, amici miei, vi voglio ricordare con una carrellata il governatore del mondo, perché io quando sento il governatore del mondo godo profondamente, ma non godo per il modo di dire, proprio posso essere d'accordo, non d'accordo, non è quello il punto, per il modo in cui affronta i 5 Stelle, spavaldo, petto all'infuori, poi anche lui ha le sue magagne, sicuramente i suoi casini, eccetera, però sentite questa carrellata, il giudizio del governatore del mondo, che è De Luca, presidente della Campania, da nemmeno nominato governatore del mondo, su Gigi Di Maio, Gigino Di Maio. Siamo a un livello tale di degenerazione in Italia che si discute addirittura di De Maio come possibile candidato premier. E qual è la sua esperienza di governo? La mia esperienza lavorativa, ho avuto occasione di cimentarmi come steward presso la tribuna autorità dello stadio San Paolo di Napoli. Vuole fare il candidato premier. Ma lui come attività professionale vanta questo: svolgo, ecco questo è il suo curriculum, la professione libera di webmaster. E questa è una cosa grossa. Lei ha mai sentito uno a cui chiedeva tu che lavoro fai? Il webmaster. Che è una formula elegante per dire lo sfaccendato, fa niente. Mi auguro che non capiti mai all'Italia la disgrazia di dover fare una esperienza di governo. Brave persone, simpatiche, un bel taglio di capelli, ma webmaster. Pensate un candidato premier che si qualifica come webmaster. Per dirle quanto questo paese rimanga ancora un circo equestre per tanti aspetti. Di Maio che si candida premier. Premier. Cioè questo è un ragazzo di 29 anni che non ha mai lavorato nella sua vita, non ha mai fatto niente. Tranne un po' il webmaster. Ora provate a immaginare uno che ha 29 anni si presenta sempre con i capelli a spazzola e la giacchettina abbottonata a due bottoni. Questo è qualche turba infantile deve averla avuta. Così come porta male qualcuno che è membro del direttorio, forte della sua esperienza di steward alla tribuna autorità del San Paolo, si candida a governare l'Italia. Proposito, noto fra parentesi che da quando non frequenta più la tribuna del San Paolo, il Napoli ha avuto un'esplosione. Che stia sempre lontano, diciamo. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presento La Zanzara. A Cruciani, pure qui in Francia, dagli uffici di Canal Plus a Parigi si ascolta La Zanzara. Allora, l'altro giorno, caro Parenzo, ho sentito su Rai 3, ho visto su Rai 3 un programma incredibile, è quello di Iacona, no? Su Rai 3. In cui si parlava di prostitute. Presa diretta. No, si parlava di prostituzione. Tema a noi molto caro, come sai, no? In questa trasmissione. Perché noi siamo a favore, anche se poi abbiamo posizioni diverse, siamo a favore della legalizzazione della prostituzione. Questo è bene chiarirlo, cioè Parenzo pensa che quelli che vanno a prostitute sono dei miserabili, però è anche a favore della legalizzazione. Miserabili sporcaccioni. Sì, bene, sì, ho riassunto bene la tua posizione? Magnificamente. Miserabili sporcaccioni. Magnificamente. Allora, io non capisco perché Rai 3 fa sostanzialmente attraverso questa trasmissione una campagna a favore della, cioè contro la prostituzione, sostenendo delle cose incredibili. Ma Iacona non è uno di sinistra che pensa che dovrebbe essere uno di sinistra, no? Non capisco. Sarà anche lui come me contro lo sfruttamento, ovviamente, identificando la prostituzione. Cioè dice che la prostituzione è abuso e violenza anche quando è legale. Cioè tutte quelle persone che legalmente, quando è legale nei paesi, in Germania pieno di gente, in Francia, in Austria, vanno a prostitute, sono praticamente degli abusatori, sono dei violenti, praticamente. Questa è la tesi: dove è legale c'è abuso, anche dove è legale c'è abuso. A me pare una tesi francamente incredibile. Per carità, poi è giusto che ognuno dica quello che pensa, non è che bisogna essere neutri. Quello che vi sto per mandare, che sto per mandare in onda, è un reportage duro. Lo è necessariamente, perché la scena della prostituzione, anche quando è legalizzata, è una scena dura, no? È una scena sulla quale si esercita abuso, violenza nei confronti delle donne. Ma volete ridere? Volete ridere, caro Parenzo? Volete ridere? Allora, il sindaco di Napoli De Magistris, tieniti forte. Il sindaco di De Magistris dice che Napoli, e lo sottolineo 100 volte, Napoli, non perché ce l'abbia con Napoli, e dico Napoli, dove pare non riescono ad assumere nemmeno delle persone al nuovo centro Apple che hanno creato, no? Cioè, a Napoli, De Magistris vorrebbe fare le Olimpiadi. Tu meraviglioso. Puoi solo immaginare cosa potrebbe accadere con le Olimpiadi a Napoli. Cioè, le Olimpiadi a Napoli. Allora, candidata, secondo De Magistris, ma è una cosa buttata lì, naturalmente, per il 2028. Siccome la partita è 2024 è persa, allora proviamoci per il 2028. Però a Napoli. Senti. A Napoli si candiderebbe per le Olimpiadi. Io le dico che mentre a Roma si discute, a Napoli si decide. Comunque noi ci candidiamo. Cioè Napoli è pronto, eh. Insomma, Napoli si candida a ospitare le Olimpiadi se Roma non ce la dovesse fare? Per il 2024 è chiaramente impossibile, come voi sapete non si può fare, ma nel 2028 perché no? Questo era il mio amico Diaco che gli chiedeva giustamente, ma Napoli si candiderebbe, come se fosse, capito, uno che domanda, ma veramente Napoli si vuole candidare, si potrebbe candidare? Coraggioso però, bravo da un certo punto di vista, coraggioso nel dire, dai, so gestire questo evento, coraggioso bisogna dire. Ma coraggioso che cosa? Dire Napoli si potrebbe candidare, ma tu coraggioso te lo immagini? Nel dire voglio farmi carico dell'organizzazione di questa cosa. Ma tu te lo immagini, Napoli, te la immagini Napoli candidate city, Napoli? Dai, beh, bellissimo, magari potrebbe essere il grande riscatto della città, perché no? Non scherziamo. No, ma perché dai, no? Non scherziamo, dai, su. Mostra cioè. Intelligente De Magistris, bravo. Sì, vabbè, sarà intelligente De Magistris, ma è una cosa inimmaginabile, dai. Perché? E perché no? Ah. Magari, appunto, è l'occasione buona per far rinascere. Dai, su. Marco, perché? Provincia di Varese, vai, Marco. Marco. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Vai, vai, Parenzo. Marco, basta questi buonasera, già mi stanno sui coglioni, dai. Vabbè. Vabbè, no, volevo non sapevo che Sgarbi avesse fatto un'affermazione del genere. Bisogna dire a Sgarbi quale affermazione? Quella sull'AIDS, che è sostanzialmente una malattia degli omosessuali. Sì. Bisogna dire, cioè, a Sgarbi, se sei, allora, no, ha fatto un passo in più Vittorio. Ha detto ieri sera che gli eterosessuali non esiste un eterosessuale, uno completamente eterosessuale che è morto di AIDS, che francamente è una cazzata grossa come una casa. Quindi in Africa sono tutti gay. Lui dice quelli che sono morti, ma è una cazzata, già l'ho detto, cioè quelli che muoiono di AIDS sono gay, eterosessuali, eccetera eccetera. Vabbè, allora sì, volevo anche aggiungere perché si dà ancora adito a questa persona, a Sgarbi, che dice solo stronzate. Tu sei omosessuale? No, vabbè. No, era così per chiedere, non c'è, non è per niente. Come si fa a parlare? Perché si fa a parlare Sgarbi? Viene invitato da noi, ieri sera era pure da Parenzo, e lo invitiamo perché comunque per il professore è sempre il numero uno, c'è poco da fare, anche se dice cazzate. Sì, ma dice delle stronzate. Sì, delle ma Sgarbi è Sgarbi, cioè è quasi indiscutibile da un certo punto di vista, capito? Poi uno, sì, sulle singole cose dice guarda questa è una cazzata, no, però poi alla fine è sempre Sgarbi, c'è poco da fare, è così, cioè non esiste brand più affermato e longevo in Italia di Sgarbi, è pazzesco, ma è 25 anni che sta sul pezzo. Quindi lo invitate per mera pubblicità? Cioè, per mera pubblicità? No, perché è Sgarbi è un brand, come dire, come la cosa, no? Quella come che la Coca-Cola, sì, esatto, come la Coca-Cola, come... dice vabbè uno bevi la Coca-Cola però forse fa male, però tanto vabbè la Coca-Cola, no, cioè la multinazionale, sì vabbè, però Coca-Cola, cioè non è che puoi mettere in discussione la Coca-Cola, il brand è un brand che da 20 anni, da 25 anni sta lì e poi alla fine non resiste. Vabbè, però scusatemi, si mette in discussione il brand Coca-Cola, se il brand Coca-Cola fa una stronzata si mette in discussione, come no? Hanno trovato anche la cocaina in un container. Vabbè, adesso lasciamo perdere un esempio, cioè, così per dire il brand, adesso non andiamo nel dettaglio. Ha detto una cazzata, se vogliamo anche grave, perché è evidente che attribuire al mondo omosessuale la questione dell'AIDS è una cosa abbastanza grave. Lui dice, l'AIDS lo prendono solo i gay, che è una stronzata pazzesca. Ma perché, cioè, vuoi dire queste stronzate così, cioè per far girare... Ma portalo in tribunale, che cazzo vuoi che ti dica? Qualche associazione gay lo vuole addirittura portare in tribunale, che mi sembra esagerato. Enrico da Vicenza, vai. Volevo tornare al discorso dei 5 Stelle, no? Anche i sondaggi ultimi, nonostante quello che è successo, il Movimento 5 Stelle è ancora il primo partito. Sì, lo diceva Parenzo ieri, ma questo non c'entra nulla, questo non è perché sono il primo partito. Volevo spiegare, no? Sì, Parenzo ricordava i sondaggi, sì, certo. No, lo ricordo anche io perché li ho letti anche oggi. Vabbè, allora? Gli italiani hanno fatto un piccolo passo in avanti, non è più come una volta, perché si sta cambiando da chi rubava a chi magari fa qualche errore. Sì, però questo argomento non mi convince. A me, che quelli, a parte che devono ancora dimostrare devono ancora dimostrare tutto a Roma, perché non è successo niente. Uno potrebbe dire, siccome avete avuto 2-3 anni in cui la giunta romana era in crisi, forse potevate partire con qualche cosa nell'immediato. Perfetto. Invece non si è visto nulla. Magari fra un anno, io non lo so. Vedrete, il cammino è inarrestabile, perché gli italiani sono più deficienti. Prima si rubava, adesso si sbaglia, però perlomeno non si ruba più, non c'è un condannato, e ormai sono in alcuni comuni, eccetera, sono 3-4 anni, non c'è un condannato dei 5 Stelle, mentre dalle altre parti ce ne sono centinaia e centinaia. Ecco perché c'è stato un passo in avanti. Gli italiani, io non so se è un passo, io non so se è un passo in avanti, so solo che si sono incartati tra di loro, si sono incartati tra di loro. Certo, e comunque a te che sei probabilmente un elettore dei 5 Stelle, non ti hanno raccontato la verità. Siccome ti hanno detto che te l'avrebbero sempre raccontata, noi siamo trasparenti, non ti hanno raccontato la verità. Non te l'hanno raccontata, cioè che condanna. Quella è indagata. No, lascia non perdere, non ti hanno. Cosa amico mio, quando tu, fai il moralista severo, poi, poi alla fine. Ma io capisco che questo è un errore, non è una cosa. Ah, vabbè, è un errore, meno male. Ed è diverso. Ma scusa, quell'altro dice il candidato premier Di Maio che dice che non ha letto la mail. Certo, ha sbagliato a leggere la mail. Ci sono degli errori, dai, ma su. È diversa, ma è la sostanza che è diversa. Va bene, ma questo. Va bene, ciao. Ma non lo so, pubblicità, GS4, traffico, il meteo e l'otto, vogliamo fare 2 ore e mezza di minchiate e poi ogni tanto così, 2 puntatine di Zanzara nel mezzo, così. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Dico, durante questo GR il traffico, Cruciani dove minchia se ne va, che si vede che esce dallo studio e si vede in lontananza, oltre un vetro, in una scrivania là sotto, ma che cosa fa là sotto? Allora, caro David, uno giustamente mi ha scritto una cosa, l'aspetto più surreale della teoria di Sgarbi è che se fosse così, come dice lui, verrebbe quasi da dedurre che la femmina sia AIDS immune, perché è evidente che no. Certo, giusto. Tra le altre cose, ma vogliamo riassumere la teoria sgarbiana? La teoria sgarbiana parte dal fatto che Vittorione, il nostro Vittorione nazionale, come il Vittoriano, no? Il Vittorione nazionale è uguale, certo. Non usa mai il preservativo, cioè non ha mai comprato un preservativo in vita sua. E vabbè, ognuno poi fa quello che vuole, no? Tu non sopporti il cappuccio. In realtà, secondo me, tu non l'hai mai comprato. Cioè, non hai mai comprato. No, non ho mai pensato di comprare un preservativo. Infatti, pur avendo sperimentato molto il campo, non mi è mai capitato nulla. No, ma questo d'accordo, questo però per caso, hai avuto culo, scusami. Con le mogli, se tu hai una moglie, scopri sempre lei, puoi prendere l'AIDS. Altrimenti, se tu ne fai una e poi scappi, sei più veloce tu dell'AIDS. È proprio cioè, toccare e scappare. Se tu approfondisci un corpo malato, alla prima non capita niente, capita una su 1 miliardo, alla terza o la quarta, insistendo, può capitare. Quindi l'unica arma intelligente è toccare e ficare. È una cosa che ho studiato benissimo. Ma scusa, questo è il rischio massimo, teoricamente, questo no, qua. È il rischio minimo. Ma come no? Quello è l'opposto di quello che dicono, più rapporti hai... No, dicono solo delle balle, raccontano solo... Cioè, ho capito, rischi più le malattie scopando sempre la moglie o una sola persona. Pericolosi. Ma scusa... Non hai paura? Non ho mai avuto paura, la figa non ha i denti per quello, se non hai i denti vuol dire che non è pericoloso. No? Beh, ok, non hai i denti, adesso non è pericoloso, è pieno di gente che ha preso le malattie. E infatti, ma se tu e tutti quelli che hanno preso, secondo te hanno scopato delle donne oppure hanno fatto qualcos'altro? Cioè, tu hai mai visto un morto di AIDS totalmente eterosessuale che non abbia avuto una declinazione omosessuale prevalente? Beh sì, non puoi dire una cosa... Dimmi un nome, dimmi... Cioè, tutti gay! Che è morto di figa? Tutti gay! No, non so, pare prevalentemente, io non conosco un solo eterosessuale morto di figa. La figa non fa danno. Sì. Eterosessuali io non ne conosco uno. Non ne conosci uno. Voi mi pare. Ma sì, ma adesso di nomi noti no, ma di nomi noti no, ma è pieno di persone, dai. Fatemi una lista di eterosessuali, mi pare interessante come test per te. eterosessuali, rigorosamente eterosessuali, sono tipo Walter Chiari, Mastroianni, Simenon. Mica sono morti di AIDS questi qua, scusa. Fidel Castro, no, tutti, no, Fidel Castro ha scopato 35.000 donne attestate, sì. Non è morto di AIDS. Magari ha usato il preservativo? 35.000. Non credo. 35.000. Sì, vabbè. Mitti, 12.400. Se uno che scoppi solo donne non muore perché la fica non avendo i denti non è dannosa. Allora, vogliamo dire però una cosa molto chiara, perché noi possiamo scherzare o ridere su Vittorione, no? Però bisogna dare un messaggio molto chiaro. Noi non diamo messaggi, non ce ne frega niente. Però, allora, l'HIV si trasmette per via sessuale e, come dire, ematica, no? Possiamo dire di sangue, col sangue, eccetera, eccetera. E come si previene? Qual è una delle strade, no? La strada maestra, la strada maestra. Usare il condom, in questo modo, no? Si previene. E la teoria per cui se tu vai sempre con la stessa, cioè Parenzo che è monogamo, non rischia nulla praticamente, no? Non rischia nulla. Certo, lui che invece va, come dice lui, no? Toccate fighe, senza nulla, rischia molto più di te. Se no sembra che tu rischi molto più di lui, no? Cioè, no, ma non è una questione personale, è una questione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso per carità Sgarbi può fare, può riscrivere la storia, può fare qualunque cosa. Sì, sì, certo. Su questo non si scherza, dai. Allora, a proposito però di nuovo della vicenda Raggi, 5 Stelle, Roma, il casino che stanno combinando su un assessore. Alla fine si tratta di una, a parte le loro lotte interne, gli assessori che si dimettono, di un assessore indagato. Ma la volete fare finire di bloccare una città perché c'è un assessore indagato? È vero che questo assessore è un assessore importante, che se cade lei poi comunque ci sono dei problemi, che è un assessore che si occupa di rifiuti e che si era occupato pure di rifiuti nelle precedenti gestioni. Ma stanno facendo un casino, sostanzialmente bloccando i lavori per una città, no? Perché poi non è che la giunta è in attività, si stanno occupando di mettere a posto gli equilibri interni. No, ma non c'è dubbio, però la cosa interessante di oggi, sarà noiosa, ma è questa qua. Beh, cioè, la Raggi non dire cose noiose, questo... non dire cose no, noiose. No, ma non è noioso, ma dice no al direttorio. Manda a quel paese al Vaffa il direttorio, questo sta avvenendo. Cioè il direttorio ieri, questi qui si sono riuniti per 10 sì. ore, senza lo streaming, senza niente, da soli. E gli hanno detto, si devono dimettere tutti. E avevano chiesto che si dimettessero tutti. Quattro persone, tra cui comunque l'assessore. Però la notizia è che la Raggi tiene il punto. Virginia va avanti e se ne frega di Di Maio, di allora, Battista, la Raggi ha parlato. Ecco. Ora, io ti faccio ascoltare qualche cosa della Raggi che abbiamo preso proprio pochi minuti fa. La signora Raggi. Allora, questa Raggi, che è due coglioni quando parla, guarda, non mi sono mandare ma due palle pazzesche. Ma no, due palle. Ma cioè non. Per carità, l'hanno votato il 60% romani, io rispetto, però possiamo dire che non ha carisma questo sindaco di Roma. Ma questa volta dimostra carisma, Su questa vicenda, per ora, dimostra grande carisma. Ma senti le cose proprio di un democristianitudine. Cioè, sembra proprio. Ma meglio quelli della DC dal punto di vista della comunicazione. Senti qua che dice: non abbiamo ancora letto le carte sulla Muraro. Sono qui oggi per fare chiarezza su quello che è stato definito il caso Muraro. Sappiamo che in procura c'è un fascicolo che riguarda l'assessore Muraro. Noi ad oggi però non abbiamo mai avuto modo di leggere le carte. Non conosciamo le circostanze di tempo e di luogo, non conosciamo quali siano i fatti contestati, non sappiamo nulla. Vogliamo quindi leggere le carte e ci auguriamo che arrivi quanto prima questa documentazione. Ah, è una cosa pazzesca, guarda. Ottimo, cioè, il garantismo che dimostrano, l'attenzione ai dettagli che dimostrano, invece dicevano ai politici ladri, mafiosi, figli di puttana, siete indagati, andatevene, è una cosa vergognosa, dai. Senti, saranno i PM a decidere se c'è reato, avete credo? Cioè, questo è il festival dell'ovvio, senti. Se dovessero emergere delle responsabilità, lo diciamo chiaramente, come abbiamo sempre fatto, non faremo sconti a nessuno. Tuttavia, lo dico chiaro, saranno i PM a dover decidere se vi è o meno un'ipotesi di reato. Non saranno certo i partiti, né tantomeno i giornali. Ma che vuol dire? A parte che l'ipotesi di reato... Ma sì, vuol dire il suo, però. Ma sì, ma poi l'ipotesi di reato già c'è, perché se uno è indagato c'è più o meno un'ipotesi di reato, no? Sì, ma bisogna vedere se sei quindi a giudizio. Ma se magari sì, ma dai. Comunque, conferma la Muraro dicendo... Brava la Raggi! Io invece oggi dico il contrario. Dico brava la Raggi! Ma perché tu lo dici perché resiste a Grillo. Resiste a Grillo, perché lei è il sindaco, è stata eletta dai cittadini e non dal direttorio. Le persone hanno votato, il 60% dei romani hanno votato Raggi, non hanno votato Di Maio. Caio, Di Battista, Gianrusso, Bibi, Bubù, Chichi, Cucò, Davide Casaleggio. No, hanno votato la Raggi. Lei ho capito, ma lei chiede, per telefono chiede a Di Maio che dobbiamo fare, cioè lascia perdere adesso la conferenza stampa. Ho capito, ma il risultato è che ad oggi, ieri sera, 24 ore fa, questi volevano la testa di questi quattro persone della giunta. Lei ha detto no, vabbè. Claudio da Roma, vai Claudio. No, sentivo dice i cittadini hanno votato la Raggi. Sì, io sì. Come cittadino ho votato la possibilità dopo 30 anni di ripulire una città dalla merda e dal fango. Io sto con Virginia Raggi. Ma tu puoi stare pure con mio nonno in carriola, Claudio, ma che vuol dire sto con Virginia Raggi? Scusa, giornalisti, politici, Grillo ha sbagliato all'inizio a dire che avrebbe torto un finanziamento ai giornali. Ecco cosa ha fregato il movimento. Tutti, cioè, perché i adesso i giornali sono contro Grillo, dice. Giornali, ma chi se ne frega, ma nessuno vi rendete conto che vi stiamo a dare la pappa tutti i giorni? A me non me la dà la pappa. Parlate di Sala, parlate un po' di Sala, che ha indagato il sindaco a Milano. Ma nessuno si stupisce. Ma nessuno si stupisce che parlate di Sala che fanno le nomine la mattina, la sera, Raggi. Allora, sembra un professore di geometria, Raggi, che conferenza è PGR. Scusami, vai, Claudio, che Sala possa dare stipendi alti, che possa avere dei problemi. Ma se ne frega, questo ha negato di avere le case, di avere le proprietà, di essere proprietario. Benissimo, di un'azienda. Ma è stato detto. Allora, ma Renzi, ma come si permette di dire tutte bugie a Roma? Dalle bugie che ha ricominciato la solfa delle bugie per avere il sì al referendum. Pensionati, attenzione che questo non ve dà una lira. Ok, impazzito. State tranquilli, statali, Renzi, non ve dà una lira. E il giorno dopo che avete votato sì, il buffone fa la mossa dell'ombrello come sta fatta da 2 anni e mezzo. Vabbè, Claudio, mi sembra che tu stai parlando di altro. La Raggi ha detto una cazzata o no? Ha detto una cazzata o no sull'assessore indagato? La sì, Raggi ha detto una cazzata, basta. Esperta, non ha detto una cazzata, non c'è esperienza. Non c'è esperienza. Siamo arrivati a che non c'è esperienza. Stiamo messi bene col sindaco di Roma che non ci dice bene, inesperta. Allora, 30 anni di esperienza ti hanno tolto 22 miliardi che pagherai fino al 2040. No, ma quello è un altro che nessuno nega, infatti è il motivo. Mio, fatevi tu conti. Ma è il motivo per cui la Raggi sta là, però. Siamo usciti dalla palude. Sì, grazie, movimento, continua così, non ti cagare nessuno. Vabbè, ciao. Ma Alessandro, che... Berlino, vai Alessandro, da Berlino addirittura, vai Alessandro. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Volevo intervenire su quello che ha detto Sgarbi, cioè? Secondo me ha perfettamente ragione. Su che cosa ha ragione, scusami? Che gli eterosessuali sono praticamente immuni contro il PD. Non dire cazzate, Alessandro, non dire cazzate, gli eterosessuali sono immuni. Se tu vai a vedere chi si ammala, chi sono. Ma non è vero che sono immuni. Tossici, extracomunitari, neri. Sì, tossici, extracomunitari, neri, perché gli altri bianchi non si ammalano, gli AIDS. I bianchi no. Quelli normali no. Quelli che normali, sesso, che vuol dire normali per te? Scusa, normali perché... Quelli che fanno sesso eterosessuale... Perché tu che consideri malati gli eterosessuali, che gli omosessuali li consideri dei malati? Non ho capito. No, però non... Malati no, però... Però non sono normali. Però quasi. È una perversione, l'hai detto anche tu ieri. Però, no, io non ho detto affatto questo, figuriamoci, io dico che sono che è una perversione. Alessandro, anzi Davide, è un po' di tempo che non sentivo alla radio qualcuno parlare di omosessuali come malati. Ci mancava un po', è stato, come dire, quasi un classico della Zanzara. Beh, di tanti anni. No. Mancava no. Cioè, mancava uno che... La cosa allucinante è che uno da Berlino... città aperta, città moderna... Berlino, quindi non so. Tra l'altro pieno di froci, lo possiamo dire, pieno di froci, sì pieno di omosessuali. Ci sono dei quartieri gay, anche di tutto. Esatto, cioè, vita libera, uno da Berlino, già la cosa che ascolti da Zanzara anziché lavorare a quattro ore va questo bene. È straordinario, scusa, non rompere i coglioni su questo. Da Berlino, bene. Poi da Berlino chiama per dire una scempiaggine simile, ecco, questo è molto curioso. Aspetta, lo tengo lì, fermi tutti. Sì, pronto, radio merda? Ah, è la Zanzara. Vabbè, uguale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. I don't want your money, honey, I want your love. Ma no, ma come sono messo? Mi ero dato dei buoni propositi per settembre. Iscriversi in palestra, fare un po' di dieta e non ascoltare più la zanzara. Parenzo, sono un miserabile, aiuto! No, volevo dire a Parenzo che io, e anche a Cruciani, che io ho questa perversione che quando vado a giro con i miei amici in macchina o vado a casa loro, gli devo spiaccicare le caccole o nel divano di casa o sotto il sedile della macchina. Sto attento che non mi vedono, ma lo devo fare, più forte di me. Sono qui in Portogallo, a Praia de Roca, a Portimão, sole fantastico, acqua freschissima, la mia ragazza di fianco e la zanzara nelle orecchie. Siamo al top. Siamo al top, Cruciani. Qui c'è gente che va puttane in Austria e io devo ascoltare la zanzara in queste condizioni. Quasi peggio di Parenzo. Quasi. Ma perché dice peggio di Parenzo? Non ho capito. Ah, perché c'ha il bambino in braccio. Come se perché aveva il bambino in braccio? Sì, bravo, beh, finalmente un tratto di umanità in questa trasmissione da bassi fondi, ottimo. Un tratto di umanità, bambini. Cose vere, no? Non questi miserabili che raccontano le loro storie sessuali, schifo. Quello che si che chiama. Ma tu immagina, ci vorrebbe uno psichiatra, uno che chiama per dire che in macchina attacca le proprie, scremme. Ma è una cosa incredibile, che si ma cosa è incredibile? Non ho capito. Ma è incredibile questo racconto di queste porcherie che neanche portano. Scusa, ieri ti sei perso, uno, uno che ha detto che ha degli istinti omosessuali nei miei confronti. Vabbè, dei fortissimi istinti omosessuali. Ma questa è anche una delle cose più educate che uno può sentire qui dentro, figuriamo, questo non mi scandalizza. Mi fa più schifo questi che chiamano, che fanno i loro bisogni nelle vasche da bagno, che chiamano e sono contenti di dirlo. Questa è una cosa incredibile, guarda, incredibile, se ne alare alla lenzina. Allora, leggo su una rivista, chiamasi Oggi, il seguente... Vita vissuta, mi scrive un noto avvocato. Bravo, che bravo, ha ragione. Di cui non farò il nome perché è un grandissimo avvocato e non voglio... Allora, non in, voglio piscina per superare, in piscina per superare il trauma del naufragio. Vita vissuta, va bene, scritto. Senti, senti, in piscina per superare il trauma del naufragio. Da noi i profughi imparano a nuotare. All'Odi Vecchio è partito per 5 migranti il progetto Basta Annegare, tra le polemiche dei residenti. L'Odi Vecchia, secondo Wikipedia, 7.524 abitanti, ospita 50 profughi richiedenti asilo. 5 di loro stanno seguendo un corso base di nuoto per imparare a stare a galla e soprattutto superare la paura dell'acqua nata sulle carrette con cui sono arrivati in Italia. Capito? Sì, cioè, praticamente erano terrorizzati anche solo alla vista dell'acqua. E ti credo. E hanno organizzato, ovviamente a spese nostre, immagino, ovviamente a spese nostre, beh sì, qualcuno paga naturalmente, un corso per non annegare, un corso per non annegare. Una paura, una fobia terribile, immagina chi ha attraversato il mare in quelle carrette lì, ottimo, finalmente vedi che c'è una parte buona di paese, c'è una parte sana. Cioè, secondo te è giusto organizzare, spendere soldi pubblici per organizzare dei corsi di nuoto a questi profughi che sono arrivati in Italia? Mi pare il minimo, il civile, adesso mi tocca dire civile, ma dovrebbe essere la loro ordine del giorno una cosa simile, ma non solo corsi di questo tipo, andrebbero fatti anche dei corsi di italiano, assistenza psicologica a questi che sono sbarcati dopo giorni e giorni passati nel mare. Cioè uno arriva in Italia, non si sa in che status ancora, perché ancora sei richiedente asilo, potresti essere come dire, clandestino, potresti essere entrato e non hai il diritto di entrare. Potresti essere invece uno che, ma la percentuale è molto bassa, di quelli che sono veramente scappano da guerra, eccetera, eccetera, e tu comunque cominci a organizzare corsi, eccetera, eccetera. Devi organizzare la macchina dell'accoglienza che può comprendere. Cioè, corsi di nuoto, corso di italiano, magari. Beh, perché no? Fare una cosa fondamentale, questi qui saranno terrorizzati a vedere. Ma sai quante persone terrorizzate ci sono qui in Italia? Cioè, se dovessimo organizzare corsi per tutti quelli terrorizzati. Infatti ci sono i servizi sociali per le persone che sono in difficoltà. Vabbè, eravamo con Alessandro da Berlino. Che secondo il quale praticamente Sgarbi ha ragione, cioè gli eterosessuali non rischiano l'AIDS. Come fai a dire una puttanata del genere, Alessandro? Scusami. Ah, innanzitutto perché non le conosco. conosco. Si parla più forte, però, che vuol dire? Vabbè, chiami da Berlino, però ormai siamo nel 2016. Vai, allora? Va bene. Non le conosci che? Non conosci etero che sono morti dagli esseri? È pieno, no, è pieno. Ragazzi, non dite stronzate, su, come ma va? Ma va. E poi perché pensi, che, perché pensi che i gay sono malati? Non ho capito. No, sono degli sporcaccioni più che altro. Sono degli sporcaccioni. Sessuale. Perché sono degli sporcaccioni? Sì. Ma perché fanno tutte le porcherie che... Fanno tutte le porcherie che vai, parla qui alla radio. Vabbè, le cose mi fa schifo solo pensarle, le cose che c'è ancora con sta storia che il sesso anale è una porcheria e dunque loro sono dei malati perversi. Qual è il punto? Esatto, quello. Mamma mia, Davide, come guarda, mi sta scrivendo inorridito Giovanni Benincasa che dice che questa persona che chiama da Berlino è una persona schifosa. Schifosa. No, ma non ho capito che chi è che non conosci, cioè tu non conosci un etero malato di AIDS, Alessandro. Ma non esistono. Non esistono, ma ragazzi, ma che state dicendo? Ma come non esistono? Ma siete alla follia pura, è pieno, mi ricordavano ieri Magic Johnson, uno famosissimo, ma è pieno. Che è nero. E poi fai sapere se veramente... Ma che c'entra che è nero? Questa cosa che i neri rischiano... Lei cosa fa a Berlino? Di che cosa si occupa? Alessandro, disoccupato a Berlino, che cazzo fai disoccupato a Berlino? Scusa, da 4 anni. Da 4 anni, perché prima che facevi a Berlino? Prima facevo il tassista. Il tassista. E poi ancora prima lavoravo in ufficio. E perché? Perché da 4 anni ti mantiene qualcuno, che fai a Berlino? Ti danno il sussidio? Che il sussidio, cioè. Ah, il sussidio. Ah, bella, spese dalla Merkel campi allora. Sì. Cioè, a Berlino spesa... Ci sono gli immigrati italiani che vanno in Germania e la Merkel gli dà il sussidio. Vedi il paese civile. No, poi al di là di questo, cioè... No, ma vedi la differenza qual è? Che la Merkel dà il sussidio anche a un emerito imbecille come questo qui. Non c'è distinzione. Chiunque può avere il sussidio in Germania. Questo qui non lavora da 4 anni, ha tempo da perdere. Chiama la zanzara anziché andare a cercarsi un lavoro. Che sarebbe questo fa bene a chiamare. Dice che gli omosessuali sono sporcaccioni e che non esiste un etero. E la Merkel gli dà il sussidio. Vabbè, adesso non è che il sussidio si distingue tra può distinguere tra, no, però voglio dire, tra omofobi o tra a tutti gli italiani che sono dicono dai il sussidio agli immigrati, lui è un immigrato perché è un immigrato italiano che è andato in Germania, ma adesso che c'entra, non lavora, telefona alla zanzara e questo diventa una granata, andrebbe tolto il sussidio immediatamente, telefona alla zanzara, ma non solo, perde tempo perché evidentemente perde tempo, dice sciocchezze sull'omosessualità e gli danno il sussidio, va tolto immediatamente. Adesso come vuoi replicare tedesca a Roma ha segnalato che gli ha tolto il sussidio. Alessandro, innanzitutto non me lo possono togliere perché sono italo tedesco, ho solo la cittadinanza tedesca, mia madre è tedesca, quindi non me lo possono togliere. E poi? Quindi... Oh. E poi vabbè, io lo prendo perché io ho lavorato 14 anni e preferisco vivere col sussidio. Vabbè, Alessandro, questo lo capisco, è preferibile il sussidio piuttosto che lavorare. Ciao. Giampiero Mughini con noi, buonasera. Ragazzi, buona serata. Come andiamo? Al peggio non c'è mai fine, è noto. Allora, ma tu ti aspettavi quello che è accaduto ai tuoi amici 5 Stelle? È notorio che me lo aspettassi? No, perché... No, francamente, dire che mi eccita neppure perché quando uno non si aspetta nulla da una situazione, da una classe politica, ammesso che loro... si possa usare il termine classe politica, da una presunta novità, la novità non, eccetera, no, io non mi aspettavo nulla, sono del tutto indifferente e ai tanti voti che hanno preso qui alle elezioni romane e adesso a quelle che mi sembrano non delle sciagure, ma veramente delle situazioni grottesche, mi sembrano, ma cioè no, ma comiche più che altro, cioè comiche perché si sono... Sì, ho detto grottesche che è similare al termine comico, ma grottesco. Ma tu quando senti una sindaca si mette lì e fa benissimo perché ha preso tutti quei voti, dice io adesso e così via e cade nel grottesco sbagliando, sgarrando, non so, le nomine, ma non è che sgarrino le nomine, loro non hanno nessuno, è semplicemente questo. Cioè non c'è personale, dici, non c'è... Beh, non c'è... Sai, dico sempre, quando io mi dovevano operare alla prostata, non è che mi sono rivolto a un volto nuovo della medicina, mi sono rivolto a un primario che aveva fatto 700 operazioni di prostata. E com'è andata? Bene, cioè non è che ti sei pentito, ti dovevi affidare uno più giovane. No, non mi sono pentito, lui ha fatto un'operazione con tutti i fiocchi e controfiocchi, voglio dire, era la 701esima. Dice, sai, mi affido a un volto nuovo, ma com'è nella medicina, non vedo perché non dovrebbe essere così nella politica, dove c'è un curriculum, un'esperienza, una sapienza nel maneggiare gli strumenti specifici della politica, che sono appunto la scelta delle persone, il lavorare assieme, quelle cose lì. E mi pare che questa bravissima ragazza non avesse mai fatto nulla del genere, era stato in uno studio da avvocato, ma sì, per carità, benissimo. I mestieri non si improvvisano, ben inteso, un mestiere che io non augurerei al mio peggiore nemico, perché amministrare Roma è più facile lo sbarco in Normandia. Sì, su questo non c'è dubbio, però c'è da dire una cosa. Molti dicono, beh, ma ci sono quelli del PD che hanno 110 indagati, adesso rompete tutti i coglioni su questa cosa, cioè l'Italia intera che è concentrata sulle sorti... No, io non sono concentrato per niente. Non te ne frega nulla? No, proprio nulla. Cioè, se si dimette domani mattina... Non mi eccita minimamente, capisci? Ma poi invece Renzi ha detto benissimo in questa occasione, ha detto vedo, ma non è che sono contento di vedere questo, perché questa cosa è nociva per tutti. Ma che hanno fatto fino adesso? Però è nocivo per tutti, che cosa? Che lì venga nominato Tizio anziché Caio, o il fatto che dei 2500 autobus romani ne funzionino 1100. Capisci? I problemi non dipendono dalle facce nuove, i problemi sono strutturali di un paese, di un'amministrazione eccetera, che è in rosso in ogni senso. Perché gli autobus non funzionano? Perché non hanno i soldi per ripararli. Però scusami tanto, c'è da dire pure una cosa un po' più chiara su questi 5 Stelle. Hanno tanti coglioni sulla questione della trasparenza, dell'onestà, e onestà. Sono caduti nel ridicolo. No, e soprattutto nell'onestà, sino a questo momento non c'è nessuno che sia stato imputato no, di niente. No, ma non per questo, no, perché non hanno comunicato una cosa fondamentale. Questi sapevano una cosa. Era molto semplice. Ma vada bene, dovevano comunicarla, io sono assolutamente d'accordo. Non è che uno perché è indagato chissà quale tragedia, no, ma no. Loro hanno detto di Pizzarotti che doveva andare via. Certo, capisci? Certo. Hanno detto di Pizzarotti, bravo, che non è simpatico al vertice del movimento, che doveva andare via. In questo caso qui invece, siccome avevano un pasticcio, allora lo hanno tenuto celato. Ma ripeto, io da loro non mi aspetto nulla, quindi non è che mi deludono. Senti, ma questo Di Maio, ma quando parla, tu ti ispira a qualcosa? No, perché uno dice potrebbe diventare... Guarda, Peppino, io purtroppo ho la mia età, quindi devo usare il mio tempo veramente, sai, è un tempo molto serrato. Io non ho ancora letto tutto Dostoevsky, vuoi che stia ad ascoltare Di Maio? C'è un limite a tutto. Vabbè, ho capito, ma questo... No, però riconoscerai, caro Giampiero, che questa volta la Raggi ha tenuto la barra diritta, perché ha sfanculato... Vabbè, ma questi dettagli non importano, Giampiero, che gliene frega? Ma vabbè, ha riconosciuto alla David, non so se in questo... Non so bene che cosa voglia dire in questo momento, capisco la tua osservazione. No, perché lui si occupa dei gargarismi. Non capisco bene cosa voglia dire tenere la barra dritta. No, lui mi sembra una meravigliosa gara di dilettanti allo sbaraglio. No, ha confermato i suoi assessori, ha confermato la Muraro dicendo non lo decide un partito nei giornali. Ma figuriamoci, se questo allora vada bene, questo criterio loro lo avrebbero dovuto utilizzare sempre. Mentre loro, certo, ogni volta che un loro avversario politico aveva una qualche ombra sul capo, dicevano, anche adesso hanno detto di Errani, che mi sembra una persona adamantina, appena avuto un problema con la giustizia, si è dimesso. E allora leggiamo articoli di loro amici dove c'è scritto Errani benché assolto. Sì, sì, ma sì. Come si possono scrivere queste puttanate? Sì, no, benché assolto. Sì. Come benché assolto? Se Errani è stato assolto vuol dire che è un cittadino nella pienezza dei suoi diritti come David, Peppino e me, o no? Sì, sì, ma no, noi abbiamo delle colpe maggiori nella vita, cioè sicuramente siamo più peccatori rispetto ai 5 Stelle. Siamo Peppino, io ti sento male, mi no, parli siamo un po' dei più forte. Sto dicendo che siamo dei peccatori rispetto ai 5 Stelle. Grazie a Dio siamo dei peccatori. Siamo dei grandi peccatori rispetto a questi. Insomma, ognuno fa quello che modestamente è in grado di fare. No, beh, assolutamente. Però, Giampiero, una questione, qualcuno mi sta scrivendo, Giampiero Mughini, il solito servo di Renzi. Sì, sì, assolutamente. Io ricevo una paga, una paga da Renzi, è molto consistente, per cui è del tutto evidente. Devi dire a questo idiota che gli faccio vedere il versamento in conto corrente, questo cretino che ti ha detto queste cose. Anzi, portamelo qua davanti. No, è su Twitter. Portamelo qua davanti. È su Twitter e su Facebook, sai, queste ma cose. Portameli qui davanti, questi idioti di Twitter e di Facebook. Io li vorrei vedere in carne e ossa, capisci? Per farli a ragù napoletano. Sto parlando dal punto di vista intellettuale. Sì, beh, certo. Ma guarda che è pieno di persone che scrivono: Mughini, servo di Renzi, non attacchi mai il PD, attacchi solo i 5 Stelle. No, di guarda, continuo. Allora, di continuo. Dobbiamo chiarire con questi. Cioè, la cosa nostri, che dicono servo di Renzi. Io non sono mai stato né vicino al PD, né niente, né nulla. Ma chi dovrei attaccare? Ma poi io non attacco mai nessuno. Servo, ti dicono servo, servo, servo di Renzi. Guarda, ci sono nomi e cognomi. La parola è giusta, è molto appropriata. Poi loro, sai, hanno un italiano molto ricco. Avendo fatto degli studi tra la prima e la seconda elementare, e il loro italiano a quello arriva. Però è chiaro da queste cose che tu il web, ma già l'hai detto più volte, non lo sopporti. Preferisci leggere libri. Sai che ha scritto pure un libro che si chiama La stanza dei libri, come vivere felici senza Facebook, Instagram e followers. Bellissimo. Ma io, sai, non credo che si possano mescolare i libri eccetera alle discussioni che stavamo facendo prima. I libri sono una cosa troppo seria per parlarne di sguincio. No, ma certo, no, volevo dire che tu hai da sempre, professi da sempre questa tua no, come si può dire, questo tuo fastidio nei confronti di tutto quello che viene dal web. Sì, cioè, assolutamente, non sopporto. L'ho sempre detto, eccetera eccetera. Ancora mica scrivete, ancora, ancora continuate a scrivere su Mughini, ancora c'è gente che mi scrive: non rompete i coglioni, servo di Renzi, va già detto. Che vuol dire poi? C'è pure gente che scrive a me: siete servi di Renzi, parlate solo male dei 5 Stelle, basta, mi sono rotto i coglioni di queste cose qua. Dai Peppino, ma non prenderli neppure in considerazione, perché la cosa strabiliante non è che la ex hostess dell'Alitalia dica le sciocchezze che ha detto, ma appunto, siamo Martani, è che qualcuno la prenda in considerazione, perdonami. La signora Martani, sua matrice, Parenzo, eh? Signora Martani, sì, no, ho capito, certo. Poi ha detto che gli era stato hackerato. Dai, su via, Peppino, non mi fare morire. Ho la mia età, rispettami. No, no, ti rispetto assolutamente. Senti, Giampiero, ma la cosa che voglio sapere da te è questa. Tu sei a favore delle Olimpiadi o no, per esempio, a Roma? Io contrarissimo. Mi ripeti la domanda, perché te l'ho sentito male. Olimpiadi a Roma, Olimpiadi. Ah, sì. Allora, io penso che potrebbe essere la botta definitiva che porta Roma a livello, perlomeno di debiti, a livello di debiti epocale, eccetera. Potrebbe essere questo, però 15 su 100, se non fai nessuna scommessa, tutto si ferma. No, arriviamo al terzo mondo con le Olimpiadi, te lo dico. Però certo, se sbagliamo, se facciamo un paio di opere fallimentari, se entrano 10 lire ne abbiamo spese 100, ed è successo così a molte città. Esatto, i greci, il primo loro inciampo è stato l'Olimpiade. Certo, senti, ma un'ultima cosa, un parere, Parenzo, sulla questione sgarbiana di oggi, glielo vogliamo chiedere. Ah, no? Certo. Beh, Vittorione ha detto una cosa inaudita qua. Sì, l'ho letto. Solamente io penso che Sgarbi faccia un torto alla sua intelligenza e alla sua cultura, cioè quando dice che l'AIDS, cioè, quando dice quelle puttanate di cui l'AIDS è solo gay, fa solo un torto non alla civiltà, perché secondo me il cattivo gusto non è buono, ma fa un torto alla sua intelligenza e alla sua cultura. Ma lui adora fare questi torti alla sua intelligenza e alla sua cultura. Cioè, tu dici proprio, non dico che lo fa apposta, ma cioè, come si può dire che l'AIDS è vero che il mondo omosessuale, ma dai, è stato. Risparmiami, Peppino, ma come si può dire? Ma certo che poi non si deve dire, ci sono cose che non si devono dire. Perché? Uno deve mantenere una linea del ragionamento, del verbo, della parola all'altezza delle sue ambizioni. Lui è un ragazzo molto intelligente, certamente uno dei più colti che io conosca, non ci vuole molto, dato che la maggioranza sono degli analfabeti, non vedo perché cada in questi abissi di volgarità. Ma no, ma non è questione di abissi di volgarità, è che lui sostiene proprio delle cose assurde. Innanzitutto che non ha mai usato il preservativo in vita sua e non bisogna usare, non si dice. Ma sono cose di cui sarebbe meglio non parlare. Io penso che un gentiluomo si caratterizza per il fatto che non parla di queste cose, capisci? Ma noi ne parliamo ogni giorno, ne parliamo. Un gentiluomo e un villico sta in questo. Per cui in questo caso è un villico. Beh, è uno che parla così. Una bestia. Vedi un po' tu. Vabbè, ciao, ciao, ciao caro, ciao, ciao. Ciao, caro. Dopo il casino dei 5 Stelle a Roma, ci può salvare solo il partito della Zanzara. Cruciani e Parenzo, padri della patria. La Zanzara. Non me lavo da una settimana, piscio sul lavandino, ho i capelli come Cruciani, è meglio che comincio a sentire Radio Maria. Aniello da Napoli, vai! Sì, buonasera. Dimmi. Diciamo che io trovo bizzarro il fatto che da settimane non si fa altro che parlare dei 5 Stelle. Sì, alza la voce per favore, alza la voce. Dicevo che trovo bizzarro sì. il fatto che da settimane non si fa altro che parlare, riferendosi ai 5 Stelle, sì. di, diciamo, di metodo e non di merito. Mm. Io credo che non sia normale. Ma che cos'è che non è normale? Non ho capito. Ma io penso che se si fosse trattato di un altro partito, o se si fosse trattato di un partito, oggi non staremmo a parlare della Muraro, se è indagato. Ma meno, non è vero, ma si parla sempre. Ma figuriamoci, le giunte di Marino sono state scarnificate, le giunte di tutti si occupano di tutto oggi. Indagati, assessori che dicono cazzate, assessori che sono indagati, assessori che hanno problemi. Non diciamo puttanate, che quando uno si presenta al mondo sotto con le vesti dell'onestà, della trasparenza, e poi omette di dire alla grande opinione pubblica, ai propri cittadini, ai propri elettori, che c'è un assessore indagato, così di cui non me ne può fregare di meno. È una stupidaggine. No, ma certo che è una stupidaggine rispetto. Se uno non, se tu ci paragoni. Sono problemi che andrebbero discussi, affrontati, fatti sapere all'opinione pubblica, che vengono adombrati da questa discussione. Ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? Ma c'è sempre qualcosa di più importante. Ma coprirsi dietro questa cosa dicendo sono i poteri forti, noi non rubiamo, ci sono problemi più grandi, non c'entra nulla. Non è che la gente è concentrata su questa cosa qui perché c'è un complotto contro i 5 Stelle. Semplicemente perché, ripeto... Io penso che ci sia un complotto, però penso che ci sia un atteggiamento nei confronti dei 5 Stelle. Pronto? Sì, dimmi. C'è un atteggiamento nei confronti dei 5 Stelle come se li si volesse trattare da scolaretti, quindi non da... Va bene, Aniello, ciao. Alfredo, provincia di Napoli, vai. Alfredo. Condo. Dimmi, Alfredo, dimmi. Oh, melutra, tu è chissà lo schifoso che ti fermo, racchiata. fermo, sei andato. Ma a quest'ora, fermo, stai tranquillo, Alfredo, cosa vuoi dirmi? Parenzo non c'è, comunque poi io... Ma io non lo so, a quest'ora devo sentire parlare di sesso anato. Di sesso? Di sesso? Anato! Anale. Se non fai più l'amore. Chi è che non fa più l'amore? Chi è che non fa più l'amore? Io non faccio... Merda. Alfredo, ma stai tranquillo un attimo. Calmati. Ma queste porcherie a quest'ora di sera, faccio un provocatore in un paio giornata. Ma te a quest'ora devo sentire a te per radio. Ma tu che stai facendo adesso? Che stai facendo adesso? Boh, alla rime. Ma che stai facendo? Devi sentire queste porcherie. Vabbè. La pugnetta che sto facendo, la pugnetta mentre parlo con te. Vabbè, Alfredo. Perché tu parli di tutte queste porcherie a posto di parlare di gente che e ruba tutte queste comuniste che stanno al governo i comunisti che stanno al governo. Bella questa recita però, Alfredo. È bella questa recita, bravo, sei un bravo attore. Sei un bravo attore. Sei un bravissimo attore, Alfredo, bravissimo. Antonio, Milano, vai! Ciao Cruciani. Dimmi. Io sì, mi chiamo Antonio, sono di Milano. Sono un eterosessuale, lo sono sempre stato, e sono malato di AIDS. Eccoci qua, nel senso non è che sono contento. Scusatemi, ma io ho dovuto chiamare perché sì. Ho sentito tante cose questa sera. Ho sentito anche quello che ha detto Sgarbi, però vabbè, Sgarbi è un personaggio. Sgarbi si vabbè, è un personaggio, Sgarbi, uno quando l'hai, dice... L'hai detto, Sgarbi. Quindi anche se dice cose non vere o comunque opinabili, Sgarbi è Sgarbi. Però sì, ho capito, persone... però quando si parla di AIDS uno può dire le peggiori cazzate, quando si parla di AIDS uno deve mettere quando delle cose... Quando si parla di AIDS, scusami, ma non si scherza. Come ti sei ammalato tu di AIDS? Innanzitutto oggi questa malattia viene un po' controllata attraverso i farmaci, no? Anche se qualcuno dice che non serve, no? Oggi è, diciamo curabile, diciamo controllabile. Come ti sei... in che modo? Come con tua moglie? La mia moglie. Cioè? Mia moglie è conosciuta, inconsapevolmente mi ha contagiato, in quanto lei non sapeva di essere malata a sua volta, l'abbiamo scoperto praticamente insieme. Insomma, come si è contagiata? Come si è ammalata lei, scusa? Come lei si è ammalata? Lei faceva l'infermiera, mia moglie è mancata. Si è contagiata in ospedale attraverso un contatto occasionale. Cioè, in che senso un contatto occasionale? Cioè, un sesso occasionale? Sì, no, un contatto ematico occasionale in ospedale, pronto soccorso. Vabbè, però Sgarbi ha detto una cosa diversa, cioè adesso tu ci stai prospettando. Tu non ti sei ammalato di AIDS per rapporti sessuali non protetti, eterosessuali. Con tua moglie. Questo per dire che questo è chiaro che è un caso particolare. Il mio è un caso particolare, però è esemplificativo del fatto che gli eterosessuali si possono contagiare. Ma certo, ma questo perché non c'è manco bisogno punto, di non c'è nemmeno bisogno, ma non c'è nemmeno bisogno ma di chiaro, dirlo, cioè, è talmente chiaro che non è che l'AIDS è riservato ma guarda, ai gay. Scusami, io ho voluto, è talmente ovvia la sciocchezza che Sgarbi ha detto che forse non c'era neanche bisogno che lo chiamassi, ma siccome non ho sentito chiamare nessuno a testimoniare, ho detto chiamo e lo dico. È ovvio che è un'ovvietà che Sgarbi abbia detto una sciocchezza, ma ne è conscio anche lui. Sgarbi non è uno stupido, okay? Ma non lo so, perché sai, c'è un sacco di gente che chiama che è ancora convinta che l'AIDS sostanzialmente sia una malattia che è riservata o al terzo mondo per situazioni particolari oppure all'omosessualità questa, o principalmente questa, al sesso anale, capito? È un retaggio culturale che forse poteva essere accettato diciamo 25 anni fa, 30 anni fa, quando la malattia quando ci sono stati i primi casi all'epoca di Rock Hudson, che forse è stato forse è stato il primo caso eclatante, no? Di morte di personaggio malato di AIDS. Vabbè, Antonio, ma tu che ormai diciamo le chance di sopravvivenza sono molto alte, no? Speriamo. In che senso speriamo? Scusa. Il malato di AIDS oggi vive una vita... Cioè tu sei sieropositivo innanzitutto, sei sieropositivo, non è che sei... Io sono in AIDS conclamato. Ah, hai l'AIDS conclamato. Che è una cosa differente. La sieropositività è una cosa, l'AIDS conclamato è un'altra. Anche questo forse, non dico che non venga fatta informazione, ma forse bisognerebbe farne di più, perché c'è molta confusione anche, c'è molto pressapochismo, ok? Io sono in AIDS conclamato, il malato di AIDS conclamato oggi vive tra virgolette una vita diciamo normale, ok? Io vivo la vita che vivi tu, più o meno, ok? Chiaro che io però... sono soggetto a delle restrizioni, sono soggetto a dei controlli che tu non devi, ai quali tu non ti devi sottoporre. Beh, no, sicuramente no. Devo tenere delle attenzioni che tu probabilmente non devi tenere. No, ogni tanto faccio le analisi, ma insomma... Ma questo fa parte... Le ho fatte anche recentemente. Poi mi hanno spiegato una cosa, che quando tu vai a... Le ho fatte tipo a... Mi ricordo, era luglio, tipo... Dunque adesso mi hanno spiegato che praticamente quando vai a fare queste analisi, cosa che non sapevo, nel momento stesso in cui tu vai a ritirare praticamente sai che non sei sieropositivo, insomma, sì, in sostanza, sì, perché sì, altrimenti sì. ti chiamerebbero prima, ti convocherebbero. Sì, oggi l'esito è molto, molto più immediato, no? Ma addirittura vieni chiamato. Io ti dico queste cose perché ovviamente facendo parte di un circolo di persone che ovviamente abbiamo in comune purtroppo questa malattia, è chiaro che facciamo... Vabbè, ma che cosa vuoi dire a Sgarbone tu? Di qualcosa a Sgarbone. A Sgarbone dico semplicemente, se io avessi la possibilità di parlare a tu per tu con Sgarbi, direi di rivedere un attimino le sue idee e di parlare con qualcuno, con qualche eterosessuale che si è ammalato di AIDS. E che a lui dice in sostanza realtà... che l'eterosessuale non si trombando in sostanza non si ammala di AIDS, ma invece si ammala chi ha delle tendenze omosessuali, cioè chi ha fatto sesso messa così ha un significato completamente diverso. Messa così non mi sento neanche di dargli torto, nel senso che è chiaro che l'omosessuale, chi vive una vita promiscua, diciamo, ha molte più probabilità chiaramente di ammalarsi della malattia, di diventare sieropositivo e poi eventualmente entrare in AIDS inflammato. Questo è un dato di fatto, è un'ovvietà anche questa. Sì, ma la promiscuità esiste anche tra gli etero, Bravissimo, bravissimo. Quindi, ma sì, dal momento che la promiscuità esiste anche tra gli etero, non è assolutamente vero che gli eterosessuali non sono a rischio. Grazie Antonio, ciao. Luca! Vabbè, ogni volta urli Peppino, non si sente. Urlalo bene almeno, no? Urlalo bene, cazzo. Come va? Peppino! Come andiamo? Difensore della Raggi. Ho scoperto che Telesi è un difensore della Raggi, ma vi rendete conto o no? Difensore della Raggi, del buon senso. In che senso? Parla più forte però, Luca, se no non ti sente a cazzo, dai, metti vicino... Difensore del buon senso. No, non si sente, ragazzi, pubblicità, poi torniamo. Cazzo, aiutatemi, voglio la voce di Mauro da Mantova sul mio Tom Tom. La Zanzara. Allora, adesso se si sente Luca Telese. Ecco qua. Luca Telese ci spiega perché secondo lui c'è un attacco forsennato alla Raggi che è superiore alle responsabilità che magari ha di comunicazione, di trasparenza, eccetera, eccetera, il sindaco di Roma insieme agli assessori, eccetera, eccetera. Dimmi perché, che c'è questo complotto? Come sai, non sono grillino, anzi non ho risparmiato critiche. Ma stiamo parlando di un possibile avviso di garanzia che non è ancora arrivato. Ma come, cioè, non è arrivato? È arrivato l'avviso di garanzia? C'è un'ipotesi. C'è un avviso di garanzia nei confronti dell'assessore Muraro. Ma è un'ipotesi di reato, stanno indagando, non è provata nessuna responsabilità. Ma quello non c'è dubbio, certo. Cosa viene contestato? Un trito tovagliatore a Rocca. Sì, però scusami, Luca. Tutti i giornali italiani, tutti i telegiornali, tutti i media stanno facendo la pelle alla Raggi che non ha fatto niente, non ha nessuna responsabilità e non diciamo nulla su Sala che si è dimenticato di dire nella sua, quindi ha commesso un falso, perché questa è l'ipotesi che c'è per lui sulla sua proprietà in Svizzera e sulle azioni della sua società. Ma come, nessuno ha detto niente? Chi è che non ha detto niente? Ma avremmo dovuto chiedere le dimissioni. Ma dico, quello era prima delle elezioni innanzitutto. Sì, ma si è dimesso su Sala. Sono accadute valanghe di cose che non hanno ottenuto neanche una riga. Prima delle elezioni è uscita la sua falsa dichiarazione, sicuramente falsa, sicuramente, perché lui stesso ha ammesso in un'intervista a Barbacetto che aveva dichiarato una cosa non vera. Poi è stato nominato il socio della società che lui aveva omesso di dichiarare nella giunta e poi, non ultimo, si è dovuta dimettere per un avviso di garanzia, per un reato molto più grave, una delle capogabinetto. Di che stiamo parlando? Di tutto questo non c'è neanche una riga. Ma non è vero, se ne occupano marginalmente i giornali. No, non parliamo di questo, del trito. No, ma non parliamo di questo. Stiamo parlando di una ipotesi che potrebbe riguardare la Muraro. Ora parliamo della Raggi. La Raggi, a parte che i giornali adesso dicono ha violato il regolamento interno del Movimento 5 Stelle, ma i giornali devono occuparsi delle vicende interne del regolamento del 5 Stelle. Ha mentito. No, però scusami. Ha preso un po' di tempo per decidere cosa fare, cosa normale. Ma non è questo, ma se lo stesso Di Maio dice... E qual è la cosa? Ma scusa, Di Maio sembra Berlusconi con la nipote di Mubarak. Di Maio dice no, non ho letto bene la mail della taverna. Sì, ma qual è la... Quando tutti presenti, reato, fermati un attimo, non c'è nessun reato. Vabbè, per adesso. L'ha scritto Michele quando Serra, tutti dicendo cambierò tutto, ma sono peccati veniali. Cioè, ma chi ha detto che sono peccati grossi? Lo dico io. il brand del 5 Stelle era siamo netti. Poi no, io, non solo, siamo non trasparenti, siamo re, siamo va bene, di fronte a una rogna da smaltire, che forse è anche una rogna esagerata, siamo d'accordo su questo, non sappiamo neanche cosa abbia fatto, di alcuni indagati sapevamo che avevano fatto cose turpi a prescindere dal giudizio, qui non sappiamo neanche sì, se lei veramente, però il punto è che se tutti presenti non abbiamo un elemento, se tutti d'accordo, scusami, tranne un pezzo della Sardegna, andiamo al mezzo, però se tutti presenti, scusami, però non me ne fotto di queste cose qua, stai no, stai parlando, tu stai pensando, tu ma pensi, qual è la ciccia? Ma no, ma non è dov'è questione di ciccia, è questione ma che... Ma sì, ma vabbè, perché ti devi unire al coro? Ma si sono ma anche unito al coro, si sono dimessi assessori, ma di che parli? Questi qua si incattano tra di loro, Luca, dai, su, non governano la città e pensano a queste cazzate, conflitto. Dai. C'è un conflitto fra il direttorio e la Raggi e questo lo sappiamo. Ma questo ma è il punto, dai. Ma secondo te se si dimette Marra o cambia incarico, a noi cambia qualcosa? Non sai ci cambia nulla, nulla, zero. Ha cambiato Marino, la segreteria ha fatto un ripasso di giunta... ma anche Veltroni e non ce ne siamo neanche accorti. Oggi la notizia, domani i giornali diranno Marra, Grillo ha ottenuto la testa di Marra, ma noi che cazzo ce ne frega della no, testa nulla, di Marra? Nulla, nulla. Ecco, allora nulla. Il problema è, saranno raccolti i rifiuti? Sarà risolto qualcuno dei problemi? Ho capito. Ma io su questo aspettiamo la Raggi al valico, ma finora la Raggi, irregolarità, non ha commesso niente. Ma nessuno l'onestà, dice il contrario. Di onestà, è che se tu dici onestà, se tu dici onestà e trasparenza e poi non comunichi ai tuoi elettori una cosa, non dici ai cittadini con tuo assessore, siccome loro fanno della questione di un assessore va indagato, bene, una questione che lo streaming era una cazzata. Impareranno ho capito, che ma di questo si sta, ma di questo si sta parlando. Segrete. Ma stiamo parlando di questo, stiamo parlando di questo. Vabbè, fermo là, fermo. Io e mia ragazza ormai, lei in Italia, io in Lituania, quando ci salutiamo non ci diciamo più quelle stronzate come mi manchi, ti amo, buonanotte amore, ma ci diciamo soltanto traffico. La Zanzara. Allora, Luca, non so se l'hai sentito, però ti faccio ascoltare ancora. Sottovagliatore, Rocca Centro. No, ma lascia perdere la Raggi, adesso mi sono rotto. Ma vuoi unirti al coro? Mi sono... Ma lascia perdere voce, il coro. A me la voce della libertà ti metti dietro a questi qui. A chi mi metto dietro? Non ho capito, a chi? Ma tutto questo coro, apertura di telegiornali. Oh, il debito pubblico ha superato 2.250.000 euro e stiamo parlando del trito tovagliatore. Ma non stiamo parlando del trito tovagliatore, dai, stiamo parlando dell'inadeguatezza. La crescita zero. Vabbè, allora hai ragione. Allora hai ragione tu, dai, no, su. Ma no, ma quanto è grave Roccacencia il problema? Ma del non trito è Roccacencia, ma non è quello, non è quello. È il allora, fatto che questi qua. Allora hanno saputo che lei è dentro un fascicolo e si sono presi 5 giorni per decidere. Ma che 5 giorni? Lo sapevano dal 28 luglio. È passato un mese, più di un mese, dai, su. Non diciamo stronzate. Hanno discusso. Ho capito, bene, ma litigano tra di loro, si incartano, c'hanno le correnti peggio ma della Democrazia Cristiana. Ho capito. Esatto, loro. Come tutti i partiti. Questo ma almeno sono onesti. Come tutti, almeno sono prova. Onesti, almeno sono onesti. E poi faccio io parto del coro, almeno sono onesti. Vabbè. Vediamo se le soluzioni sono positive per Roma. Guarda, ti posso dire il problema giuridico questo assessora è pagheremo ancora 38 euro la tonnellata per buttare fuori i rifiuti di Roma e non riusciamo a smaltire Roma. Vedremo, questo, entro 6 mesi è questo, su questo! Aspetta questo. Un attimo, aspetta, a me lo sai quando piacciono i 5 Stelle? Lo sai quando piacciono in realtà? Quando denunciano questa cosa in Parlamento. Lo ha fatto all'inizio di agosto, io poi l'ho riascoltato dopo, quando sono tornato, un deputato che si chiama Fraccaro, se non sbaglio, il quale denunciava una cosa incredibile su cui molti sorvolano, che è il fatto che i deputati, i senatori hanno l'assicurazione sulla vita, credo, o l'assicurazione su altre cose pagata da noi, l'assicurazione. Senti, a me i 5 Stelle piacciono quando fanno questa denuncia, quando cominciano a occuparsi delle città, del governo delle città, si incartano tra di loro. 350.000 euro di soldi dei cittadini per coprire l'assicurazione vita, invalidità e infortunio dei deputati. Stiamo parlando di soldi dei cittadini per assicurare i politici, i parlamentari, i deputati in questi casi, e li vado a elencare perché questa è l'assicurazione che i cittadini stanno pagando oggi. Punture e morsi di animali, malattie tropicali, cioè i deputati vanno in vacanza, vanno all'estero, vanno ai Caraibi, contraggono una malattia e pagano gli italiani. Affogamento, ernie addominali, Escursioni in montagna, i deputati vanno in montagna e chi paga l'assicurazione? I cittadini italiani. Colpi di sole, buone ferie a tutti, tanto state tranquilli, se prendete un colpo di sole o un colpo di calore, è scritto qui, pagano gli italiani, tranquilli, 350.000 euro ogni anno. Ma non è finita, in caso di calamità naturali pagheranno gli italiani. Terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche. E questa è la migliore, Presidente. Paghiamo l'assicurazione ai deputati se subiscono un infortunio in stato di ebbrezza. Cioè io capisco che questo è lo stato con cui voi scrivete le leggi, evidentemente, ma chiedere agli italiani di pagarvi l'assicurazione se fate un incidente, se siete ubriachi, è una cosa inaccettabile. Forse questa supera ancora quella precedente, un'assicurazione se subite dei danni in caso di sommosse, insurrezioni o tumulti popolari, cioè fate le leggi che effettivamente un po' certe cose le stanno anche stimolando nell'opinione pubblica, sia mai che avvengano, magari subite un infortunio durante una sommossa e da chi vi fate pagare i danni? Dagli stessi che vi hanno magari malmenato in quel momento. A causa del vostro comportamento, che ovviamente noi scongiuriamo. Vabbè, adesso c'è un po' di ironia in questo, però. Giuseppe, io veramente sono molto deluso oggi da te. Questa è una cazzata col posto. No, 350.000 euro l'anno, 350.000 euro l'anno pagate per l'assicurazione. Niente. Per l'assicurazione. Allora, non primo, è niente. Vabbè, oh. Ma se ti piace così. Se ti piace così. Chiunque sia in un posto di ma non è un posto di lavoro quello, dai, su, lavoro. Non dire stronzate, no, dai. Posti di lavoro assicurazioni, le assicurazioni ma di scudo cosiddette hanno pure il caso che cade un geranio o un ma scusa ma perché ci deve essere l'assicurazione perché ci deve essere perché ci deve essere perché ci deve essere l'assicurazione vita tutti i posti di lavoro fanno assicurazione vita non ma so quello non è un posto di lavoro ma non è un posto di lavoro non è un posto di lavoro ma dai su non so se tu a Radio 24 ma sicuramente in tutti i giornali italiani che magari domani farebbero ma cosa c'entra esiste questa copertura esiste ma io cosa... al giornale ero assicurato facevo l'impiato ma tu non sei come un deputato fatto. Loro hanno tutte le assicurazioni private che hanno possibili immaginabili cosa c'entra che io pago cittadino italiano 350 ma non hanno pagato niente 350 vabbè euro ma se ti piace così 600 polizie così ma non lo so ma se ti... sei uno serio ce l'hai pure ma cosa c'entra ma cosa ma che c'entra che ce l'ho pure io a parte 24 ma non c'entra nulla ma hai sentito quali sono le varie ma quando si fa una polizza si dà un tot si assicura tutto vabbè se ti piace che i soldi tuoi siano impiegati nell'assicurare la vita e gli infortuni dei deputati e dei senatori va bene così se ti piace così va bene sì, non cioè, mi scandalizza se non ti scandalizza il fatto può essere assicurato anche ma cosa cazzo c'entra tu gli dai cosa c'entra adesso l'assicurazione vita o infortuni change. Oddio Cristo questo rocca change ma non è il punto non è quello che ha fatto la Raggi comunque guarda parliamo Luciani, di l'uomo delle parliamo... Intettive sta nel coro oh, ma che coro io ho detto che questi sono dei ma che il io non so a me non me ne frega un cazzo manco del trito vagliatore sto dicendo semplicemente che hanno dicono onestà trasparenza e poi stanno zitti su quella che è indagata dico solo questo punto e basta dai su Pizzarotti gli hanno fatto un mazzo così perché non ha detto che c'era l'indagine e adesso con questa invece è stanno zitti brutto. E coprono ecco, tutto no, dai quello è un caso di doppio pesismo ma è quello il punto è solo quello Gabriele provincia di Modena dai, parliamo di cose più serie che Sgarbi ha detto che l'AIDS lo prendono solo i gay dai Gabriele provincia di Modena ha detto questo da noi ieri Gabriele sta succedendo un casino vai Gabriele dimmi pronto? Dimmi ciao Cruciani ciao ascolta io sono Gabriele ho 45 anni sono HIV positivo gay non dichiarato Che sei, non ho capito, gay e vabbè, gay d'accordo. Non dichiarato. Cioè nel che senso vuol dire che non dichiarato? Gay, ma lo dice adesso, lo stai dichiarando, scusa, che vuol dire? Cioè, gay non dichiarato. Sono gay non dichiarato. Il mio nome non è Gabriele, cioè rimango nell'anonimato. Ma perché, perché? Qual è il problema? Perché non vuoi dire che sei frocio? Non ho capito. Ma no, non è che non voglio dire che sono frocio. Dalla parte, diciamo, fuori dalla famiglia non è un problema, nel senso che ho una vita comune, i miei amici lo sanno. Tua madre, tuo padre, madre madre accetta, mio padre non c'è più, mia madre accetta la situazione, però mi dice anche fai quel cazzo che ti pare, non mi rompi i coglioni, fine lì, non ne vuoi sentir parlare. Cioè basta che fai la tua vita, e lei mi dice se stai bene te sto bene anch'io. Ancora esistono queste cose, Telese, capito? Ancora esistono queste cose. Esistono, e come? Io purtroppo ce ne ho veramente i maroni che mi strisciano per terra. Comunque io mi sono abituato ad avere una vita separata. Pronto? Vabbè, allora? In sostanza io mi sono abituato a avere due vite, cioè una vita con familiare e una vita fuori dalla famiglia. Ma che ci vuoi dire? Che ci vuoi dire, Gabriele? Allora, oltre al fatto che sei omosessuale. Garbi ha detto che gli eterosessuali non si contagiano. Sì. Io vi do due risposte, secondo me sono queste le ragioni. Tu hai l'AIDS? Io sono HIV positivo e sto benissimo, sono in terapia da 4-5 anni. Cioè non è un problema, fra l'altro il medico del reparto mi ha detto guarda, se dovessi scegliermi una malattia tra il diabete, l'epatite, tutto quello che c'è in giro, mi sceglierei la sieropositività. Cioè tu sei sieropositivo e dici va a me è meglio di altre cose. Bah, no, sai. Me l'ha detto il mio medico. Il medico mi pare un coglione. Scusa, uno che dice è meglio essere sieropositivi che essere diabetici, non mi pare allora, un coglione. Però no, non lo so. Poi magari ti do le risposte. Se uno viene. No, voglio capire che ne pensi della vicenda di Sgarbi. Allora, gli omosessuali sostanzialmente scoprono 4 volte. Quello che scoprono gli eterosessuali sono sempre lì alla ricerca di sesso, cioè sesso. I gay scoprono 4 volte di più degli etero, sì, perché è così, cioè semplicemente perché non possiamo avere una vita normale se giudicati in continuazione, allora molti se ne fregano e fanno una vita normalissima e se ne sbattono i coglioni, trovano un compagno cioè tu vuoi dire che Sgarbi ha ragione, cioè sono più a rischio i gay degli etero? No, non ha ragione. Ha ragione perché scoprono molto di più i gay, ma la ragione più scientifica è che nell'ano i vasi sanguigni sono esposti e quindi, cioè, se tu hai una penetrazione anale, sì, è molto più facile che lo sperma vada a contatto con il sangue. Ma questo lo sappiamo, Gabriele, il punto è che ha detto un'altra cosa, che praticamente gli eterosessuali non si ammalano mai, cioè capito qual è il punto? Cioè, non è che non si ammalano mai. Cioè, questo l'ha detto, lì. Che non c'è un etero che è morto di AIDS, questo l'ha detto, cioè che è una malattia soprattutto degli omosessuali. Ma Sgarbi ha detto una puttanata perché voleva un po' di audience e allora lui butta per aria le cose così dopo... Tutte le attenzioni sono su di lui, ma ha detto una grande puttanata, secondo me. Cioè. Vabbè, Luca, ti saluto, va, ciao. Pronto? È il mattatoio? Ah no, la zanzara. Vabbè, uguale. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. L'altra sera al Maxim ho usufruito del buono zanzara sulla prestazione effettuatami. Siamo al top del business. Chiuso in ufficio, per di più mobbizzato da oltre 4 anni. La cura? Full immersion tra i podcast della zanzara. Siamo al top. Allora, mi ha chiamato Sgarbi incazzato nero su sta cosa dell'AIDS. Vediamo se ci colleghiamo. Intanto Angelo da Pisa, vai Angelo. Sì, ciao Cruciani, ciao. Sì, dimmi. E volevo dire, secondo me c'ha ragione 100% Sgarbi, perché lui ha detto che se te vai con una donna c'hai una botta e via, c'è una probabilità su 1000 di prenderlo. Ha detto quasi nulla, perché è vero, perché nella fia c'è la lubrificazione, non c'è capillari come nel culo c'è capillari, emorroidi, cioè i peggio schifi ci sono, capito? Beh, ho capito, Angelo, però adesso cioè, puoi domandare, no, ma è così, ma certo, ma non c'è dubbio, è nato, diciamo, l'AIDS si è sviluppato in quel mondo lì, cioè su questo non c'è dubbio, con una donna che ce l'ha, cioè tu stai dicendo, alla fine stai dicendo che il professore Vittorio Sgarbi ha ragione, perché voleva dire che il rischio maggiore c'è tra gli omosessuali. Lui ha detto, se fai una botta e via c'è una probabilità su 1000, lui ha detto quello, non ha detto, ha detto così. Cioè tu gli dai ragione, tu gli dai ragione. Ma 100%, ma puoi domandare a un dottore. Se ti fai con una che c'ha l'AIDS, ma il 5% che te la prendi, solo fitta. Aspetta, aspetta un attimo, Angelo, perché Vittorione non ci... Che è Vittorio? Vittorio, dai, mi ha chiamato prima, rispondi, no? Vittorio? Oh. Mi sa che ha sbagliato numero, scusi. Come ho sbagliato numero? Scusi, stavo cercando Sgarbi. Lei chi è? No, guardi, no, c'è un errore. Perché lei chi è? Io sono quella proprietà di questo telefono. Ma chi è? Scusi, il lei? È simile. Ma non è simile, perché è simile? Ma lei ha preso in mano il telefono di Sgarbi? Sì, vabbè, arrivederci. Scusi, ma è una vergogna. Perché prende in mano il telefono di Sgarbi? Perché? Ma lei sta fuori? Ma non sto fuori, lei prende, abbiamo fatto il numero di Sgarbi e ha risposto lei, è una vergogna questa cosa qua. No, io il mio numero è... Ma io la denuncio, la denuncio. Arrivederci. Ma arrivederci cosa? Ferma là, ma che arrivederci che cosa? Arrivederci, questo è il mio numero, ma quale numero? Ma quale numero? Ma si vergogni. Ma quale impazzito. Ma non sono impazzito, abbiamo fatto il numero ma di Sgarbi, non so chi è. Ha risposto lei e io voglio una spiegazione da questa roba qua, voglio una spiegazione. Questo è il mio numero di telefono. Non va è... bene? Abbiamo fatto il numero di Sgarbi, di non Vittorio Sgarbi. Non è il numero di Sgarbi, perché spesso mi succede che mi chiamano ed è sbagliato. Ma lei è una truffatrice, glielo dico io, lei. Lei ha preso in mano il numero, il telefono di Sgarbi? Ha preso... Ma io lo sto spiegando. Senta, la prego, questo è il mio numero di passi il telefono a Sgarbi. Ma chi le passo? Chi le passo? Mi passi Sgarbi. Mi passi... Ma come glielo passo che non ce l'ho a casa mia? A casa sua, ma non racconti cazzate. Dov'è questa casa? Ma chi è lei, scusi? No, scusa, mi passa un attimo Vittorio Sgarbi, per favore. Che le passa? Era uno scherzo, perché chi le ma passa? Che scherzo? Io sto a casa mia, la prego. Io sto a casa mia. Mi senta, ma che Vittorio Sgarbi? Ma dove lo piglio Vittorio Sgarbi? Ma chi lo conosce? Ridia il telefono a Sgarbi. Sì, come glielo do che sto a casa, la smetta, la prego. Mi sta veramente importunando. Importunando. Sì, lei mi sta importunando. Importunando. Perché questo io è il mio numero di telefono. Ho chiamato Sgarbi e lei mi deve passare Sgarbi, ha capito? Ma come glielo passo che non c'è? Sto a casa mia, guardi, questo è il mio numero, veramente, basta. Guardi che la denuncio sul serio, La denuncio sul serio per appropriazione, di cellulare, appropriazione indebita di cellulare. Ma che appropriazione cellulare? Ma la smetta, che sono anni che mi chiamano. Anni? Ogni tanto e cambi telefono. Allora cambi, se fosse vero quello che dice, deve cambiare telefono. Perché non cambia numero? Fosse vero quello che dice, io non ci credo. Non voglio cambiarlo, a lei non ci credo, ma mi denuncia! Lei deve... No, lei cambi telefono! È più... Pronto. Vittorio, stavolta... Meraviglioso. Meraviglioso, bravissimo. Un capolavoro. Io voglio dirti, ti passo la ragazza che ha risposto. Sta facendo un pompino, ma te la passo. E invece era vero che purtroppo hai capito tutto e l'hai... No, ma adesso mi perdoni per quello che per gli attacchi che ti ho fatto oggi. Nel senso che io non dico, non so niente, me ne frega niente, non mi occupo di scienza, dico io, ho scoperto della vita senza preservativo, sto benissimo. Mio padre ha fatto lo stesso, tu hai fatto lo stesso, presumo, cioè io ho detto che il rischio omosessuale è più alto e l'AIDS comincia parlando di questioni che riguardano il fidanzato di Armani. Poi è chiaro che se uno che l'ha messo nel culo con quello che diceva giustamente quel ragazzo a cui dico non ho bisogno di pubblicità, ho fatto una considerazione con i vari sanguigni eccetera, scopa anche una donna, la donna sua, ma il contagio parte da quella posizione posteriore che è quella che ha fatto, cioè tu dici l'AIDS nasce nel mondo omosessuale, questo nasce, poi si può diffondere, però questo non vuol dire che uno non deve usare il culo, però il culo ha i rischi che diceva quel ragazzo. Perché io tutti i nomi. Ma sono tutti gay incazzati, tutti gay incazzati come bestia. Sono incazzati perché se ti dice la verità si incazzano. Io non ho detto che sia giusto o sbagliato, ho detto che il dato percentuale prevalente. Allora, quei gay che vanno agli istituti vadano a vedere i dati e mi dicono quanti omosessuali sono morti per l'AIDS e quanti eterosessuali che lo hanno fatto. Qual è la proporzione? Io credo 10 a 100, credo, o 9 a 100, però ammesso che sia un 10%, dico uno che come mio padre ha praticato rigorosamente la sessualità, o che è stato con una donna, con più donne, ma in maniera, come dire, tranquilla, non con donne a rischio, drogate, eccetera, non ha preso AIDS. Quello che è andato a prenderlo in Africa da qualcuno, dall'Africa, punto di partenza è quello lì, ma non è una considerazione polemica, negativa contro ma io ho ricevuto una marea di telefoni adesso, quelli che sono andati in onda no, ma c'è addirittura un'associazione che ti vuole portare in tribunale. Sì, facciano quello che voglio, non posso dire quello che io gli dico, guardate i dati scientifici, quando vedremo che c'è un solo omosessuale in più rispetto agli eterosessuali, vorrà dire che ho ragione, perché io parlo di percentuali, non è che posso escludere che se uno è promiscuo, se uno sta con un tu però dici che non c'è un etero che è morto di gay, quella è una cazzata, dai. Parlo di un etero rigoroso. Un etero rigoroso è pieno di etero rigorosi che sono morti di gay. Ma fai una cosa, ti informi, mi dai i nomi. Ma insisti, guarda che è così. Allora, cioè, Chetwin, Dario Bellezza, io più i nomi te li do. Tu mi devi dire i nomi dei ma tuoi. È pieno di persone che di etero sessuale. È pieno, ma non mi dici i nomi. Io non conosco nessuna persona nota eterosessuale che sia stato. Non conosco tuo padre, mio padre, tu. Non conosco. Parenzo, Parenzo Rischia. Chi è che ha chiamato adesso un gay incazzato? Vuoi litigare con un gay incazzato? Ma no, non voglio litigare con nessuno perché non è un problema. No, è uno di un'associazione. È un giudizio. Beh, dico che si informi lui e tu se. I malati di AIDS sono prevalentemente il mondo omosessuale e il mondo dei drogati. Ho niente contro i drogati, per me si possono drogare con le frega niente, io sono per tutte le droghe, però è chiaro. Beh, che adesso per tutte le droghe, adesso lo esageriamo. Però dai, sono per tutte le droghe, io sono per la liberalizzazione di però droga. Tu dicendo beh no, l'eroina legalizzata addirittura. Tutto, per me tutto. Per me pure l'eroina, pure per l'eroina. Certo, tu non decidi di fare quello che gli pare, posso voler morire? Sì, no, ma quello sì, cioè quello che no, vuol dire. Te lo dico perché non c'è in me una posizione critica. Ho detto semplicemente che uno che pratica la figa non corre quel rischio. Ma non è vero, corre pure anche quello corre rischio, dai, Vittorio, corri un sacco di rischi. Tu sei uno che dice alla fine, ragazzi, allora, il preservativo potete anche non usarlo, non è così, non è così. Io dico, continuo a dire che questo avrò qui. Aspetta, non sento più. Non ho paura, non è capitato mai niente. Non l'ho mai preso nel culo. Ho praticato l'eterosessualità in modo sfrenato. Sono qua tranquillo. Vabbè, quello che c'è, quello per culo. Però ti posso dire che hai avuto culo. Io odio le categorie. Io non ho nessuna preoccupazione. Faccio quel cazzo di stare. Vabbè, ma d'accordo, quello ti prendi le tue responsabilità, per carità. Mi prendo la responsabilità di morire, sono a rischio di morire. No, vai. Ma certo. Io il preservativo non lo metto. Vabbè, sentiamo sto gay, dai, forza. Sentiamo sto gay incazzato con te. Mi raccomando, calma, resta calma. Mario, vai, Mario. Sono in diretta? Sì, Mario, dai. Sì, vai. Buonasera. Che vuoi dire? Perché sei incazzato con Vittorio? Che gli vuoi dire? Ma dovrebbe vergognarsi. Perché? Dovrebbe vergognarsi perché dice delle cose proprio disinformato completamente. Ma su che cosa? Informato lui. Ma proprio si vergogni lui che è informato. Ma come si permette? Ma che si deve vergognare di dire questo? Però adesso mi lascia parlare perché ha parlato fino adesso solo lei. Dimmi un nome. Mario, però mi lascia parlare. Mario, fermo un attimo. Dimmi un nome. Mario, c'è uno che mi scrive adesso. 19 volte di più gli omosessuali. Si ammalano di più gli omosessuali e gli eterosessuali 19 volte 19. Di più. Allora, finito. Saluta il tuo amico e mi andate a fare in culo. Per me, si vergogni di prenderlo nel culo. Si vergogni di prenderlo nel culo. Lo metto al posto giusto. Che sempre così volgare, volgarissimo. No, devo vergognare io. Si vergogni lei. No, io vabbè, Mario, ma qual è la contestazione? Mario, qual è la si deve vergognare. Sarebbe. Ma mi lascia parlare. Ma cosa vuoi dire? Ma mi lascia parlare. Devo vergognare. Vergognati tu. Lei sarebbe da portare in tribunale. Ma che tribunale? Ed è strano che qualcuno non l'abbia già fatto. Devono farlo. Si vergogni, disinformato. Disinformato completamente. È incredibile, basta con sto Sgarbi. Ma non sa da parlare d'altro. 19-1, avete perso. Ma lei non sa, non sa proprio niente, lei parla ma così Mario. A vanvera. Mario. Si vergogni, si deve vergognare, lei non parla così dei ma miei, la contestazione qual è, Mario? Salvati il culo. Ma guarda che volgarità questo uomo, è una cosa veramente fuori dal mondo. Io rappresento mondo gay di Treviso, va bene? E non è incredibile. Ma qual è la contestazione, Mario? Italiana. 19-1. La contestazione, Mario, qual è? Qual è la contestazione? Abbiamo... Ma sono dati sballati, se li inventa lui. Ma non sono sballati. Ma se li inventa lui, ci sono sia eterosessuali che omosessuali e ad ammalarsi. No, sono molti di più di omosessuali. Ma poi che cazzo è? E tu lo prendi, ecco, ecco il maestro qua, il professore, il grande professore se ne strasbatte le scatole, si vergogni, basta, io non voglio più sentirla, basta, per quello. Lei si deve vergognare, queste cose non le sa, parli dei suoi quadri, ma non delle nostre cose. Vergognati la tua faccia di fronte. Ecco, ma sì, solo offendere, solo offendere sa. Che mi devo vergognare? Di cosa mi dovrei vergognare? Di aver detto la verità? Non è la verità. Beh, insomma, sì. Non è la verità. Mario. Da denuncia. Il mondo omosessuale è più a rischio. Su questo non c'è dubbio. Il mondo omosessuale è più a rischio. Dai, Mario. Ma si informi. Sa quanti interosessuali ci sono? Vabbè, Mario, meroti coglioni. Non esiste. Meroti. Mario. Non deve occuparsene lui. Ecco, bravo. Mario, ciao Mario. Ciao Vittorio, ciao. Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Dove andiamo? Matteo, provincia di Lecce, no? Chi c'è prima? No? Angelo da Pisa ha già parlato, chi è? Angelo da Pisa ha già parlato o no? Angelo! Sì, Cruciani, poi ti volevo dire un'altra cosa, no? Poi, tu sei quello che difende Sgarbone, no? Sì, poi dicano, ma c'è anche gli eterosessuali che sono ammalati, sì. Però bisogna poi dividere quegli eterosessuali di quelli che hanno praticato, che hanno buttato nel culo, perché quelli solo fica che si sono ammalati, mi gabberebbe vedere la statistica. Vabbè, adesso andiamo nello specifico, distingo ulteriore tu addirittura. Perché se senti un dottore, ma c'è proprio, perché c'è tutta una lubrificazione, non ci sono i capillari che ci sono... Cioè, è diverso, è proprio... Cioè, vabbè, sì, ma abbiamo capito. Marco da Bergamo, dai, Marco. Pronto? Dimmi. Ciao, Cruciani, chiamavo per dire che praticamente secondo me lo Stato fa male a incitare le persone a fare figli, così, perché praticamente già le risorse sono poche sul pianeta, manca solo di affamarlo ancora di più. Sarebbe più intelligente, secondo me, magari, non so, adottare figli nel terzo mondo o qualcosa del adesso genere. Adesso che c'entra, Marco? Cosa vuoi dire? Non ho capito bene. Che cosa è inutile? Lo Stato? Che cosa? Dimmi, Marco. È dimmi. Inutile che lo Stato faccia propaganda per fare i figli. Famiglie, per fare certo, i figli. Perché? Ah, beh, quello sicuramente. Poi? Perché ne nascono 4,3 ogni secondo. Capito? E allora? Sono cioè ci sono troppi figli, dici? Ci sono troppi figli. Siamo troppe persone a questo mondo. Bisognerebbe fare un po' un calo demografico. Comunque qualcuno mi segnala, proporzione delle nuove diagnosi di infezione da HIV per nazionalità e modalità di trasmissione. Eterosessuale, soggetti di ambo i sessi che hanno rapporti eterosessuali, 1082 dal 2010 al 2011. Uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini, 994. Cioè sono aumentate le infezioni tra eterosessuali, per cui pure questo dato, Sgarbone, Vito, c'è pure sto dato qua, non c'è niente da fare. Vabbè, che abbiamo fatto? Abbiamo finito? Ancora no. Matteo, provincia di Lecce, vai. Ah, finalmente. Cruciani. Dimmi. No, Cruciani, io mi sono rotto i coglioni, perché ogni volta devi denigrare Napoli e i napoletani. Ma perché? Ma perché devo denigrare Napoli? Che è perché successo? Perché sulle Olimpiadi a Napoli. Perché a Napoli le Olimpiadi non si possono fare? No, ragazzi, non scherziamo. Ma si possono fare. Ragazzi, le Olimpiadi... Ma mi devi spiegare, ma in quale cazzo di città hai vissuto tu per parlare così? Però, ragazzi, hai vissuto a Napoli, hai vissuto a Roma, hai vissuto a Milano. Ragazzi, le Olimpiadi... Ma tu non ti rendi conto di quella che è l'ospitalità dei napoletani? Ma che c'entra quello? La cultura di Napoli, la Magna Grecia. Ma che c'entra ogni volta questo? Tu per fare audience devi prendere e denigrare i napoletani. Ma io non sto mattina, denigrando. Un pomeriggio, alza, che dici? Ragazzi, io mi sento un coglione. Matteo. Sei d'accordo? E vedi che come fai audience. Matteo, allora io ti dico... Mi sento letteralmente... Io ora ho la febbre a 40. E perché c'è la febbre a 40? Ho la febbre a 40, ma ha chiamato il mio amico che stava in macchina e diceva: ma guarda sto struzzo, io che giro tutta l'Italia. Ma perché c'è la febbre a 40? Napoli nel cuore, tu ogni volta la devi denigrare. Ma perché perché Napoli non può organizzare le Olimpiadi? Ma perché che cosa non c'ha rispetto perché... a Milano, cosa non c'ha rispetto a Roma? Perché la febbre a 40? Ho la febbre a 40 perché mi sta aiuta sempre. Poi sentendo te ora sta a 41. Allora, amico mio, allora, ti dico la verità. Sì, ti dimmi. Stai simpatico. Sì. Però quando inizi a denigrare i napoletani. Ma non è denigrare. Io Napoli, i napoletani. Napoli sì. Deve essere una città portata in alto. Amico mio, non il sindaco, il sindaco. Oddio mio. Te ne rendi conto? Vivi a Napoli. Ma ti vuoi calmare o no? Mi vuoi far parlare oppure ti devo abbassare il microfono? Allora, il sindaco di Napoli ha detto: noi ci candidiamo per il 2028. Ora, l'idea sola, diciamo, siamo seri. La sola idea che Napoli, e dico Napoli con tutti i problemi che ha, non sto dicendo nulla, con tutti i casini, le cose, possa ospitare le Olimpiadi. Ma ragazzi, ma vi rendete conto di quello che potrebbe accadere o no? Ti rendi conto tu o no, Matteo? Le Olimpiadi, di che stiamo parlando? Di cosa parliamo? L'Italia già non è in grado di organizzare nulla. Allora, che l'Italia non sia in grado. Dai, su, le Olimpiadi a Napoli. Napoli non è in grado. Non è in grado Napoli, dai, come non è in grado Roma, come non è in grado Milano, come non è in grado Bari. Ma tu dicendo Napoli ti fai la risata, tu in questo modo dici Napoli non è in grado, gli altri sì, e offendi. Ma, no, no, ma non è in grado nessuno, tantomeno Napoli. Ciao. La zanzara, la radio e la trasmissione più trash che esiste. La zanzara, una trasmissione di merda. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.